I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Tornano a correre le esportazioni, ma altri importanti indicatori economici come il fatturato e gli ordinativi delle imprese e i consumi delle famiglie continuano a deludere. I tre report diffusi ieri dall'Istat restituiscono ancora una volta un andamento dell'economia piuttosto contraddittorio. Partiamo dall'export extra UE che a novembre fa segnare una buona crescita sia rispetto al mese precedente sia a livello tendenziale, ovvero rispetto all'anno precedente. È un risultato determinato soprattutto dal ritrovato slancio di un partner commerciale come gli Stati Uniti, protagonisti per tutto il 2015, ma poi in rallentamento, che invece riprendono la corsa, probabilmente anche grazie a un cambio euro-dollaro più favorevole per le nostre imprese. A frenare gli entusiasmi sono però gli altri dati. Per restare alle imprese, la crescita mensile a ottobre del fatturato e degli ordinativi si contrappone al dato annuale che vede in calo sia i ricavi sia le commesse, che scendono addirittura del 3,2% e non sembrano di buon auspicio per la produzione nei prossimi mesi. La fotografia dell'Istat non è entusiasmante neppure per i consumi delle famiglie, che a ottobre sono cresciuti sì leggermente rispetto a settembre, ma che ancora una volta su base annua registrano un calo seppur lievi. Sono dati molto diversi tra di loro, sia per natura sia per il messaggio che proiettano, che però si prestano a una lettura d'insieme. Tutto sommato confermano quanto da tempo si va dicendo della situazione italiana, e cioè che l'economia non brilla e che la ripresa, per chi la vuole vedere, resta comunque molto debole e incerta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Dimenticate la borsa, il dollaro, l'euro, l'oro. Quello che conta in questo momento di grande instabilità è qualcosa di digitale. Bitcoin. I momenti di incertezza attuali, il terrorismo e soprattutto la crisi bancaria italiana con il Monte dei Paschi che torna nelle mani dello Stato ha infatti spinto nuovamente in Europa e soprattutto nei mercati americani il famoso Bitcoin. La cryptocurrency, ovvero la moneta digitale che sta prendendo piede in tutte le transazioni sul web a livello mondiale, una quota di mercato ancora molto piccola rispetto al dollaro, però ha raggiunto il valore storico di $900. È il massimo nella storia della Bitcoin e soprattutto negli ultimi 3 anni di grande crescita. Come dire, l'instabilità valutaria, i tassi di interesse che stanno tornando al rialzo, che stanno spostando capitali da una parte all'altra dell'Atlantico, stanno inquadrando come elemento di sicurezza l'unica valuta che in questo momento, al di fuori non soltanto dei grandi panieri degli indici di borsa, ma anche del famoso basket del Fondo Monetario. Stabilità in questo momento è la parola d'ordine, non soltanto per i mercati finanziari, ma anche per tutti coloro che cercano dei punti di riferimento nel nuovo ordine del commercio mondiale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.